Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 28 aprile, buongiorno a tutte e tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere e bentornati a Liberi Dentro, il nostro programma talk che appunto si rivolge a tutta la cittadinanza, sia dentro che fuori dalle carceri. E allora do il buongiorno anche alla nostra Antonella Cortese. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. E al nostro Ignazio De Francesco, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo dall'attualità. È una notizia importantissima, la leggo da Il Dubbio, a firma di Davide Varì, ergastolo ostativo o pena di morte sociale, punto interrogativo, perché proprio il 15 di aprile la Consulta ha deciso sull'ergastolo ostativo, cioè il cosiddetto fine pena mai, e lo ha dichiarato incompatibile con la Costituzione, l'ergastolo ostativo a cui sono condannati i boss e affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non collaborano con la giustizia, di accedere alla liberazione condizionale, anche quando è certo che sono ravveduti in qualche modo. Quindi la Corte Costituzionale non ha alcun dubbio, insomma, ha cercato di prevedere un momento, il prossimo anno, nel 2022, in cui questa legge possa essere cambiata. Ma io volevo ricordarvi anche sul Corriere della Sera le parole di Valerio Nida, costituzionalista bravissimo, che ha cercato veramente di mettere la parola fine spiegando tre cose che dovrebbero convincere anche tutte le persone che ora ci stanno ascoltando, che per giuste ragioni anche magari sono più scettiche. E lui dice: la prima ragione per togliere questo ergastolo ostativo è che la pena dell'ergastolo è di per sé incostituzionale, perché esclude la possibilità di porre fine alla detenzione e nega il diritto alla speranza. E questa cosa, vorrei ricordarlo, anche il nostro Papa Francesco l'ha detto, ha definito l'ergastolo come una pena di morte nascosta, cioè pensiamoci, va proprio a ledere i diritti fondamentali della persona, è contro ogni dignità. La seconda ragione che dice Onida è che subordinando la liberazione dall'ergastolo alla collaborazione con la giustizia, viene tolta di fatto la possibilità di scegliere liberamente, e anche questo è anticostituzionale, perché la nostra Costituzione, i nostri diritti fondamentali sanciti nella Carta fondamentale dei diritti umani ci dichiara come soggetti liberi, no? E poi la terza questione è che supporre che i vincoli con le mafie siano perpetui, spiega Onida, contraddice la natura e la dignità dell'essere umano. Quindi sono tutte ragioni fondamentali queste che pone in essere il nostro Valerio Nida. Ovviamente già è montata la polemica su questa questione, questo bisogna dirlo, e ha diviso la maggioranza di governo. Matteo Salvini della Lega dice che per mafiosi e assassini l'ergastolo non si tocca, Movimento 5 Stelle nessun passo indietro sull'ergastolo ostativo, mentre il PD apprezza questa scelta saggia della Consulta di dar tempo al Parlamento di intervenire, quindi speriamo. Do la parola a te, Antonella. Grazie, grazie mille. Allora, io oggi vi parlo di un argomento un po' sporco, diciamo. Vabbè, parliamo di rifiuti. Immondizia, rubbish, ordure, sbale, il materiale di scarto. Quello che noi buttiamo via praticamente nella differenziata e che deve essere tenuto in grande considerazione e molto controllato, perché sennò si rischia di creare un impatto ambientale davvero enorme. Con il crescere della popolazione diventiamo sempre più numerosi, non solo si riduce quello che è lo spazio fisico per smaltire l'immondizia, ma aumenta continuamente la quantità dei rifiuti, e una corretta gestione di rifiuti è essenziale proprio per garantire quello che chiamiamo un adeguato sviluppo sostenibile. È molto importante utilizzare il sistema di riciclaggio del rifiuto, perché prima di tutto dovrebbe essere tutto materiale riciclabile in realtà, e poi gli utenti dovrebbero essere così bravi da separare i rifiuti in modo da poterli poi riciclare. Però c'è una sorpresa. La sorpresa è proprio nello scarto, perché in tempi moderni di supermateriali, di biotessuti, di alta tecnologia, la vera sorpresa arriva proprio qui. Molte start-up internazionali e italiane stanno sperimentando metodi per ridare vita a materiali destinati al macero, dai gusci delle uova, alla frutta marcia, fino ai resti del latte usato nell'industria. Sapevate che dalle foglie dell'ananas si ricava il Pignatex, un materiale per fare borse e scarpe? È simile alle ecopelle, solo che ha costi di produzione molto ridotti e un basso impatto ambientale. Gli pneumatici e i copertoni possono trasformarsi in combustibile, grazie ad un passaggio in uno speciale forno a microonde che attraverso la pirolisi scompone il materiale ricavando metano, GPL e perfino ferro. E i gusci d'uova? Beh, i gusci d'uova che noi ci sembrano molto fragili, che si possono rompere da un momento all'altro, possono trasformarsi in cemento. Vengono messi in un forno fino a 1000 gradi con un composto a base di argilla e viene prodotto un cemento elastico anche migliore di quello attuale. Andiamo in Russia, a San Pietroburgo una startup di moda sta rovistando nell'immondizia per creare oggetti molto diversi. Si va dalle penne alle custodie per i computer, agli zaini, addirittura agli skateboard e alle biciclette. Come fanno? Con una stampante 3D che trasforma questo materiale e lo lavora. E le persone, soprattutto il materiale diciamo morbido, lo cuciono insieme, quindi ogni oggetto praticamente è unico. Non è un processo semplice perché ci sono tanti passaggi, però questa attività porta a due importanti risultati sociali. Dà lavoro a molte famiglie povere dell'Interland di San Pietroburgo e di Mosca, sensibilizza la popolazione rispetto alla raccolta differenziata e all'economia circolare. E io voglio lanciare un brano oggi, è un brano di musica classica, è il valzer numero 2 di Dmitri Shostakovich. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, questa volta sulle note di un brano musicale di musica classica e io do la parola a te Ignazio per parlare di Dustur, un progetto che è fatto nella scuola del carcere dove avete letto le costituzioni in arabo e in italiano. Siccome abbiamo avuto anche nella nostra trasmissione Marco Santarelli, il regista di questo film nel 2015 e anche il protagonista di questo film Samad, Abdesamad Bannak, e allora ti chiedo a te di parlarcene. Ma io entrerei su questo, visto che hai iniziato parlando di Valerio Onida. Il passaggio di Valerio Onida nel 2013 è stato fondamentale in un incontro che abbiamo fatto nel cinema della Casa Circondariale, questo grande costituzionalista che difende la legge, l'applicazione della legge, ma nello stesso tempo ha a cuore i diritti delle persone detenute, al punto che quello che è stato il presidente della Corte Costituzionale è diventato poi volontario dello sportello giuridico, se non sbaglio, del carcere di San Vittorio, un carcere milanese. Quindi molte persone detenute si trovavano come consulente per le loro pratiche il presidente, già presidente della Corte Costituzionale. Il suo passaggio ci ha dato l'idea di portare a scuola la Costituzione italiana, ma con questa idea, portarla in lingua araba, leggerla nella lingua del Corano, perché sappiamo che ci sono purtroppo molte persone di fede musulmana del Nord Africa in carcere e il progetto rieducativo ha bisogno anche di passare attraverso il linguaggio delle Costituzioni nella lingua più vicina a loro. Con questa idea, la Costituzione è una specie di libro dei sogni. Ti dice, per esempio, che hai diritto al lavoro, che hai diritto alla salute, che hai diritto a esercitare il tuo culto individualmente associato con altri. Uno può dire ma non è vero, non si fa questo, non si fa l'altro, però le Costituzioni danno come la direzione di marcia, mettono sulla carta i sogni e dicono muoviamoci verso quella direzione. Questo è stato il progetto di Dusturi. Ignazio, scusami, ma Dusturi è stato realizzato nel pieno della primavera araba. Perché fare un progetto così in quel periodo? Eh sì, quello è stata la coincidenza proprio di quegli anni, 2013, io ho visto, ero nel 2012 in Egitto, ho visto i ragazzi in piazza Tahrir, e poi sono lasciato la Siria nel 2011, a gennaio, a marzo, esplodeva la primavera anche in Siria. E allora è quel libro dei sogni, no? Che la nostra Costituzione, pensiamo ai primi articoli, la prima parte, i diritti fondamentali, io li ho sentiti gridare in piazza, in arabo. La gente gridava in piazza a Damasco, come al Cairo, come a Tunisi, le cose che sono scritte nella nostra Costituzione. E quindi abbiamo detto dobbiamo leggere la Costituzione italiana, ma insieme mettiamoci le Costituzioni della primavera, che sono appunto il Marocco 2011, la Tunisia e l'Egitto del 2014, proprio per dire a quei ragazzi ma avete ragione, certo non bisogna uccidere, non bisogna fare dei crimini, però le cose che voi chiedete sono le cose giuste. Questo è anche un'occasione che mi dà la televisione, l'Epita, Teletricolore, Fujiko, per dire che questi ragazzi del Nord Africa portano anche una lezione per tutti noi, cioè ci richiamano a rivivere i valori che sono alla base della nostra Italia repubblicana. Grazie Ignazio, e allora concludiamo la nostra prima parte di mattinata con un brano, sempre di Johnny Cash, 13, che vuol dire 13, e quindi perché è il numero del nome sarebbe di un detenuto, che è la storia sostanzialmente di questa persona chiamata sempre con un numero e mai con il suo nome. Ascoltiamolo, un brano del 1994. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. I was born in the soul of misery. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro Edu Radio con un nuovo ospite con noi. Buongiorno, Admir Asnedari, mediatore culturale al carcere Dozza di Bologna e madrelingua albanese, quindi principalmente ti occupi dei detenuti di questa provenienza geografica, immagino, no? Sì, esattamente. Dal 2014 mi occupo di mediazione culturale in carcere di Bologna, la cosiddetta Dozza, e mi occupo prevalentemente di detenuti albanesi, e nell'assenza di miei colleghi, anche di detenuti rumeni o di altre etnie, insomma, diciamo più dell'est Europa. Oggi con te, Admir, vogliamo parlare di un concetto molto importante allora per la cultura e la società albanese, ma diciamo per la cultura in generale, che è quello dell'ospitalità. E l'ospitalità rimanda all'accoglienza in generale, all'accoglienza dello straniero e in particolare a chi vive nei luoghi in cui si è approdati sostanzialmente. Allora io ti volevo chiedere su questo concetto appunto sociale, culturale delle nostre terre in Albania, perché all'ospite viene dato il posto d'onore in casa e non per esempio al padrone di casa. Allora, l'ospitalità per un albanese è una cosa molto importante, fondamentale. E parlando nei tempi un pochino più non recenti, quando le case avevano un camino, ti correggo un attimo, Caterina, perché un lato era del capofamiglia, evidentemente le famiglie erano molto patriarcali, quindi c'era il padrone, e dall'altra parte del camino c'era quello dell'ospite. Quindi tutti e Ok. due. Nel posti, come dire, più belli, più caldi, più accoglienti. Uno di fronte all'altro, sostanzialmente. Esatto, di fianco, diciamo. E anche quando vediamo delle immagini, le foto vecchie, sono messi così. E adesso, ad oggi, diciamo, immaginiamo dei salotti, delle case, insomma, con divani moderni, sempre il posto dell'ospite è vicino al capofamiglia, diciamo, vicino nell'angolo della stanza, diciamo, lo chiamiamo così noi. E un'altra cosa che magari non tutti, cioè, tutti sanno, gli albanesi ovviamente lo sanno, ma magari chi non ha visitato l'Albania riguarda l'arte culinaria è quello del cibo. Noi chiamiamo il boccone dell'ospite e la parte della coda dell'agnello. Siccome l'agnello è un cibo che piace tanto agli albanesi, e la coda dicono che è più saporita, quindi è il boccone dell'ospite, lo chiamano. È un gesto di cura, di attenzione, Esatto, esatto. esatto. Ma allora Quindi io è ti un. chiedo, ci sono delle somiglianze e delle differenze particolari fra la cultura italiana circa l'ospitalità e la cultura albanese? Sì, ovviamente io lavoro nell'ambito di accoglienza, quindi l'accoglienza italiana che c'è stata soprattutto nel 1991, quando le prime navi sono sbarcate in Porto di Bari, e lì ovviamente l'accoglienza italiana si è fatto vedere. E noi dall'altra parte l'abbiamo sentito. Però ha delle origini ancora più antiche, perché nell'occupazione ottomana, quella parte dei Balcani, e quando gli albanesi hanno dovuto scappare per via appunto dei ottomani, dell'impero ottomano, molti albanesi, molte navi a quei tempi sono scappati e sono approdati sempre in Italia, e ancora oggi, se tutti lo sanno, che ci sono dei paesi interamente con dei popolazioni ex, insomma, albanesi, ormai i cosiddetti chiamati Arbëresh. E l'altra cosa che io, anche se siamo nel XXI secolo, non è una banalità quello che sto dicendo, che ancora oggi viene conservata con una specie di gelosia, ma se, non solo di albanesi, ma anche chi non è albanese e vive in quelle parti, è una tradizione che viene tramandata, la lingua, addirittura parlano ancora la lingua vecchia, quella albanese, e quello come è rimasta in quell'epoca, e i costumi, gli abiti, e quindi ancora oggi questo succede ancora. Invece negli altri. Ho detto non è una banalità, non è una cosa scontata, perché in molti paesi le minoranze non vengono rispettate, invece in Italia appunto viene rispettato ad oggi. Quindi per quello io vedo una somiglianza tra i due popoli in questo ambito di ospitalità, diciamo. E che brano vogliamo lanciare a metà della nostra intervista? Allora, appunto, quello che stiamo parlando poc'anzi, io proporrei la canzone Moje Bukura More. È una canzone Arbëresh che viene cantata sia dalla parte degli albanesi che sono in Italia, ma sia anche dall'altra parte degli albanesi che sono in Albania. Rieccoci, bentornati col nostro ospite Admir, siete sempre su Liberi Dentro Duradio e stiamo parlando di ospitalità, in particolare ospitalità legata a un popolo, il popolo albanese. E allora io ti chiedo Admir, quando fai il tuo lavoro come mediatore culturale, come vedi l'ospitalità applicata anche in carcere? Se la vedi, se esiste insomma, delle vicende che hai da raccontarci, qualche aneddoto? Allora, io... Ovviamente sì, l'ho visto e lo noto spesso. Posso esprimermi di più, ovviamente, seguendo più i detenuti albanesi, la collaborazione e cosiddetta ospitalità fra i detenuti albanesi, ovviamente. E faccio un esempio, vi racconto che se un albanese, non solo gli albanesi, quindi dico meglio, se un detenuto ha delle entrate, ha possibilità economiche più maggiori degli altri suoi amici o compagno di cella, non lascia mai senza, per esempio, il tabacco, no? Fumare, non lascia mai i suoi compagni o i suoi compagni di cella senza fumare, quindi gli offre sempre il suo tabacco. Ce lo noto sempre, perché ogni volta che mi capita mi dicono non preoccupare che li offriamo noi, lo ci occupiamo noi a offrire il tabacco, offrire quello che non offre il vitto, insomma, del carcere, certo. Insomma, caffè, cose che vanno comprate, diciamo, certo. Vanno acquistate. Certo. E invece chiudiamo con magari una piccola vicenda anche storica, un aneddoto del popolo albanese che nel Novecento offrì ospitalità ad Einstein, no? Raccontaci un attimo questa storia, il genio Einstein. Esatto, allora parto un pochino più da lontano. Io sono orgoglioso che il mio popolo, insomma, l'Albania, durante la Seconda Guerra Mondiale sono salvati circa 2500 ebrei. Cioè albanesi, ebrei di origine ebrea che vivevano lì, ma anche altri che scappavano dai nazisti in particolare. Esatto. Uno di questi è il fisico Albert Einstein. Lui era amico di un famoso attore albanese che ovviamente viveva da quelle parti dell'Europa, vicino alla Germania, tra Svizzera e Germania, ed conosceva Einstein. Tramite un amico comune che viveva, perché questo attore in quell'epoca non viveva in Albania, ha conosciuto un medico che era il medico del re di quel tempo in Albania, era medico personale, aiutò Einstein e questo medico ospitò Einstein a casa sua, a città di Pogradec, lago di Ohrid, per poter scappare appunto dai nazisti. Stiamo parlando del 1933 circa. Sì. E quindi subito gli hanno dato un passaporto albanese e quindi ha potuto scappare poi dall'Albania, è scappato è andato in America. E allora, ultima domanda che ti faccio, per lanciare un brano alla fine della nostra intervista, che cosa lanceresti legato a questi argomenti? Più che altro mi viene in mente una canzone che riconosce, insomma, riconoscono tutti gli albanesi, che tra l'altro c'è anche nel titolo i colori della nostra bandiera, che si usa anche nei campi di gioco del calcio soprattutto, è Kuqezi, è rosso e nero, è cantata da due dei cantanti più famosi, Elvana Gjatta e Flori Mumayesi, che sono due cantanti più famosi in Albania, e la canzone si chiama Kuqezi. Questa volta su Liberi Dentro Duradio avete appena ascoltato e visto un altro volto della casa circondariale bolognese. E abbiamo avuto Admir, come Mosab, come Samia e come prossimamente anche Natalia e Marina, sono tutti volti che fanno parte dei mediatori culturali e anche madrelingua all'interno del carcere, delle figure essenziali per favorire la comunicazione dentro e fuori. E vi ridò appuntamento alle ore 17 su Teletricolore con i laboratori, mentre tra poco, subito dopo questa puntata, seguiranno sempre qui su Lepida TV, questa volta con l'equipe sanitaria del carcere, dove seguiremo il CERT in movimento. Scriveteci redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Buona giornata a tutti e tutte. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.